Gisella. Funziona, importante funziona, poi uscire anche da trucchi, ma è importante il funzionamento di questi accrucchi, come questi qua vecchi, no? Ce l'hanno a crocchio, ma l'importante è che ti concentrano di fare due chiacchiere. Dai, a crocchio era per modo di dire. No, vabbè, le stazionali già sono nella norma, quindi tutto bene. Perché con questa sento, quando piove parecchio si sente un sacco di rumore rispetto all'altra. Come mai? Ma non è nello stesso posto perché? No, no, è sempre nello stesso tubo, nello stesso palo, però è... Mi sono reso conto che quando piove questa qua è più rumorosa della boomerang. Ah, vabbè, queste antenne così non ne ho mai avuto, quindi non lo so, però funzionano bene, c'è un ottimo segnale, un'ottima radio, quindi non c'è problema. Doppio rumo quando ho scoperto che avevo questa antenna qua, ho detto perché non me l'hai detto prima? Già lo sa, cioè magari se ne è mitigato, perché lui stava cercando proprio quella, capito? La classica, se non mi ricordo, forse cos'è, una Sigma, quella col mollone, non mi ricordo, è Sigma, però non mi ricordo la sigla. L'ho avuta io quella, ne ho avuto due col mollone, funziona molto bene, quella nera, tipo frusta nera, noi la chiamiamo, funziona molto molto bene. Sì, lui stava cercando quella per mettere in macchina perché è nera, poi la conosce. Io con quella, quando c'avevo la battimobile, dalla piana lì di Chiaramonte arrivavo a Sassari una schioppettata, camminandomi, con la bomba. Vabbè, c'era un baracchino corto, l'al 48, c'era un lineare, però... Ottima antenna. È un linearone, però se la... Linearone, avevo. Cappagato, poi si è rimasto dell'antenna quella lì. Poi io stavo con la base magnetica, già va bene lo stesso, solo che è troppo grande. Io avrei voluto fare una cosa, e a un certo punto poi devi bucare, perché quando piove non la puoi mettere, c'è tutti questi limiti qui, capito? Perché devi lasciare il finestrino un mezzo aperto per far passare il filo, e quando piove non è che la puoi mettere. L'handicap è quello già delle basi magnetiche, che sono per emergenza, per l'estate, ma d'inverno è un casino. Avanti, Rubenfè. Ehi, conferma, la frusta nera, allora, mi è venuta a mettere la freccia nera con lo sceneggiato in bianco e nero della Rai. No, quella è la frusta nera. È una scena antenna, io ne ho avuto due, le ho date tutte e due, una l'ho data a Franco California e l'altra l'ho data in un certo modo, e ce l'ha ancora, capito? Ma poi Gianni già la conosce, avanti già. Le conosco, e come se le conosco, il tempo le prendevano tranquillamente, se sono sparite la circolazione. Conosco quella, conosco la Sigma Minox, che qualcuno ce l'ha, però serve a lui. C'è più di uno che ce l'ha la Minox, però non ne vendono più, ma la sorte di 12.800 più 10.000 non ne vendono più, vendono solo quella della Sirio, che si chiama PCL 1000, PCL 800, invece che PLC sono PCL. vai già. Capo, se sentite qualche suono strano, poi Marco che sta facendo lo show. Io ho sentito abbaiare, non so. Avanti, lo perfetto. Ehi, già è quella. Io l'avevo staccata da un camper dismesso, con l'altro baracchino vecchio. L'avevo schierato tutto, ho visto che era buona, gli ho dato una pulita. E fa con il suo lavoro, dai. Non c'è che dire. Raccontare che tu la usi con un apparecchio normale, anche senza amplificatore. Liscio come l'olio, proprio radio, cavo e antenna, boh, finito. Ma adesso tu la stai usando, questa volta? Sì, è montata a posto della boomerang, perché mi si è piegato il radialino, per non stare senza antenna ho messo quella su. Sì, sto uscendo con quella. E non c'è modo di addrizzare questo radialino? No, ho già fatto un accrucchio, l'ho già sistemata, sto aspettando che smetta di piovere. Ah, io la zitta, tu hai rotto la ghita, tu pensa che io ho steso la biancheria, ce l'ho già 3 giorni stessa, perché sta sempre piovendo, non ho asciutto. Io c'ho l'attendino nel salone, in mezzo alle balle, vicino al termosifone, però lo potevi fare. Purtroppo devi stendere la roba. Sì, ma non mi fa niente per metterla nello stendino, l'avrei puntamente l'avrei sterrato, quello sì. Però adesso è troppo bagnata Claudio, è troppo, lei fuggia, lei va, è troppo bagnata. Quando l'ho portata alla matrice era l'unica a metterla nello stendino direttamente, non stava più quello, quindi è troppo già asciuto. Anche se la giornata è un po' così. Sì, vabbè. No, no, la mia è già asciugata. Riprendi lo profe che arrivo subito. Ehi, cosa c'è Gianni, il cane che... Che se ne ha voluto? No, non è il cane, è il mio figlio che sta facendo lo scemo. Ah, ecco. Mi era sembrato di sentire abbaiare, vabbè. E lui che ha fatto il cane, lo stava facendo così, facendo l'umano. Ok, ok, bene mera. Sì, questa pioggia decisamente già... scassato la wallera, come si dice. Io la stavo cercando l'antenna nera, però... Perché non doveva fare il suo lavoro, però nello stesso tempo non doveva guastare l'estetica della macchina, capito? Ho capito. Però vabbè, già hai trovato un'alternativa, dai. Sì. Ma l'alternativa è troppo lunga. No, va benissimo quella lì, va alla grande. Però il problema è che se trovi alberi, tocchi l'albero, fatti danno, perché ti butta l'antenna, girare sotto sopra e cade sulla cappotta, magari te la grazia, capito? Invece mettendo la fissa qui il problema è proprio quello dell'acqua, perché quando tu c'è la magnetica devi lasciare un tantino finestrino aperto per passare il filo, mentre invece quando tu ce l'hai fissa il filo all'interno e non devi fare niente. Sì. Io quando avevo la base magnetica, che poi lo stesso avevo buccato, all'angolo proprio in alto dello sportello, dove c'era la variazione più grossa, chiudeva e non lo pressava il filo, lo pressava la guarnizione e non le faceva niente. No, io ho paura che la fissichi tu. No, sono guarnizioni grosse, non le fa niente. Assolutamente, capito. Io ho fatto così, proprio per quando, qualche volta partivo da Perfu, inizialmente avevo la base magnetica, poi avevo buccato. Quando partivo per poi stava piovendo, lo facevo così. E ho visto che non gli ha fatto niente. Poi all'altezza di dove proprio chiudeva, e avevo fatto un giro di vulcanizzante, un pochino più grosso, anche per ricordarmi il segno, capito, del cavo. In modo che quando chiudevi il cavo era leggermente più grosso e non lo morsicchiava. Ascolta già, ma nella macchina ci sarà già predisposta un'antenna per l'autoradio? Ma se arrivo ghiscia e ci metti l'antenna no, non è fattibile? Sì, ma è dietro, è brutta dietro. Tu immaginati dietro questa antenna alta, e dietro pare l'autoscopio. Ho capito, vabbè. Utilizzare già il foro che c'è già nella cappotta, vabbè, non è a centro cappotta, però comunque poi ho visto che si trovano ancora in vendita quegli accrocchi, sono degli adattatori praticamente che utilizzano, è una scatoletta che praticamente praticamente è un adattatore che ti consente di poter utilizzare l'antenna baracchino anche per la radio, per l'autoradio, dai. Sì, quello qui c'è da tanto, non è adesso. C'era tanto che si poteva fare, però non è quello il problema. Il problema è che dietro a me non mi piace. O la metto da parte dove c'è la plafoniera o la metto al centro cappotto. Ho capito, vabbè. Però bucare è sempre una rottura di scatole. A me mi ha assicurato già quando ho portato l'impianto, mi ha assicurato che anche se la buca la ruggine non le prende, perché le lamiere di adesso sono diverse, sono zingate, sono protette da diverse, poi lui ci mette delle protezioni, capito? E mi ha sempre fatto queste cose, capito? È bravissimo facendo questi lavori qua. E mi ha detto se lo volevo fare, gli ho detto di no perché non me la sentivo ancora, no? È una cosa che devo decidere, però è un po' difficile da decidere, vedere perché se la mettono vicino alla pattugliera non è che deve smontare tutto il cielo, tutto quanto, basta che smonti quella plastica che c'era montante e la fa passare da lì con le... oppure lo fa passare direttamente col coso, con, le... con la guida, capito? E lì è facile farlo passare, ma cazzo, se devi svoltare tutto il cielo, ma svoltare la macchina non mi piace. È un travaglio, no, ma infatti non ho. A questi livelli meglio lasciare le cose così. Io mi allontano 5 minuti, devo fare una cosa. Ci sentiamo dopo, ok? A dopo. E io va bene, dai, avanti qua. Per un secondo. Eccomi già, sono qua. Ehi, aspetta che sto guardando un secondo, ma... E fai, fai, non c'è problema. Eccomi. CQ, CQ, CQ, QC, QC, QC, QC. CQC ci piglia la motorizzazione. Oh, yeah. Aspetta, cosa che volevo dire? Ah, vabbè, l'ho detto l'altro giorno, era una ripetizione, no? Che ho visto un 3009 in un film poliziesco. Ah, sì, sì, sì. Adesso se trovo quel film dei camionisti che hanno entrato di gomma, vediamo se lo, magari lo trovo su internet, me lo riguardo. Te lo ricordi quel film qua? Sì, veramente, già l'ho visto però, dai. È molto bello, vero? Beh, lì è... cos'è? Fine anni 70, mi pare. Un grafone ai camionisti che danno una mano a questo qua, non mi ricordo cosa aveva combinato, e lì i baracchini se ne vedono bene. Vira un'altra di gomma, vira... tutti i nomi ti piacciono, me li ricordo. Ehi, dopo lo cerco se c'è su YouTube oppure in streaming, adesso che l'ho nominato mi è venuta voglia di rivederlo. Adesso so, è passato un bel po' di tempo, yes. Ma avete conosciuto voi il CB Carlo Pedivella? Io sì, e tu lo conosci a Luca Tapparetta? Ciao Luca, buonasera. Ciao, già, ciao, ciao Cla, mi sentite? Sì. 9 più, quasi 9 più 10, sì. Ti abbiamo risposto, a voglia. La voglia che funziona di tutto, no, perché... stamattina ho fatto uno spezzone, Cla, per fare la prova, vedere se sono salito un po' le stazionali, visto il tempo. E vabbè, l'ho lasciato a casa, adesso domani faccio un salto e mi compro 2 PL da... Se vuoi di là domani fammelo sapere, Micla. Molto probabilmente sì, perché devo scendere lì punti a ritirare un pacco, capito? E quindi molto probabilmente sì, al 99,9%. A meno che non ci siano imprevisti proprio all'ultimo momento, però ti chiamo e andiamo. Ascolta una cosa, allora, più o meno dimmi un orario, più o meno, perché se nel caso dobbiamo andare a fare tutte queste commissioni, mi porto il cane appresso, magari, anzi no, niente, il cane me lo porto appresso perché mamma non glielo lascio, non vorrei fare, cioè non vorrei che succedesse di nuovo il problema di quel sabato, mamma mia, va, lasciamo perdere, che sicuramente stava giocando, si è sbattuta da qualche parte, non è stata molto male, e me la porto io appresso, e tanto ho un PC da sistemare, che me l'ha dato stasera, e penso che al 90-90% me ne sto a casa domani. Guarda, io dopo le 9:30 sono libero, quindi ti chiamo e iniziamo a metterci in movimento. Io prima mi devo sistemare il cane, cioè devo fare colazione a mia moglie, sistemarmi il cane e poi sono libero. Ne può scendere anche l'aria, non me ne frega niente, però queste cose dobbiamo fare, anche perché ti ripeto, devo andare di punti a ritirare un pacco. Ehi, Iacca, non c'è problema, allora carichiamo anche il della TV e ce la buttiamo. Sì, facciamo tutto domani, perché poi domani sera non ci sono, capito? Che alle 4 c'è un appuntamento per un altro e quindi non ci sono. Perciò devo fare tutto domani mattina. Vabbè, tanto quando mi avviserai tu, comunque già l'altro mi la so presto. La volta che mi alzo, la sciacquata e poi il cambio, lui se già pronto, va bene. Poi nel caso hai qualche imprevisto non c'è problema, non ti preoccupare, tanto io roba la fai già ne ho. No, ma non penso ci siano problemi, devo fare per forza tre cose. Devo ho detto a mandare i punti a comprare, a ritirare un pacco, prima la prima cosa che fermo andiamo a tirare un po' di roba, ok? Poi ci spostiamo verso giù, ci facciamo quelle commissioni che abbiamo letto e poi vado a ritirare quel pacco. Sì, andiamo avanti Gianni. Ciao Luca, ciao, per sentito, ehi, ragazzi, io vado a ordinarmi la pizza qua sotto casa, quindi mi assento un attimo, ci sentiamo dopo, ok? Ok. Ehi, già, d'accordo, vai, va bene. Sì, a dopo, ciao. Ehi, va bene, facciamo così, là. Facciamo così, dai, almeno. Fatto un vato che mi sembra più, là, peccato, la televisione anche se non ricordo, ma è un casino, là. Guarda, ho misurato, come ti ho detto, io ti ho cambiato di nuovo il condensatore, quello che avevo cambiato io nuovo, tu no, c'è qualcosa, c'è anche il problema dall'altra parte. E adesso poi il trasformatore, non ti preoccupare, lascio lì nel sottoscala, domani mattina lo vado a prendere, lo carichiamo e ce l'ho aperto. Poi ti ho detto di andare a ritirare questo pacco che è arrivato a casa di una persona, poi domani ti dico chi è, che è una radio, e ritiriamo quella, poi andiamo a farci quelle altre commissioni che abbiamo letto, a spendere un po' di soldi. Eia, va bene, non c'è problema, là. Poi ci prendiamo un caffè anche, vabbè un caffè non è bevo comunque, ma mi berrò qualche altra cosa. Andale, avanti di doppio. Eia. Vabbè, cosa non ce l'avete fatta a gestire questo televisore di qua? Oh, già, è stato già riparato, capito, è un casino. Poi è vecchio, magari io più o meno, dovevo fare la verifica, ma non ci puoi buttare soldi sopra una TV vecchia. Beh, no, ma è fatto. Una volta che l'hai visti due volte, tre volte la cosa, della rapida, poi non ti puoi. Guarda, quella che c'era la Marina in camera da letto, un 26 pollici. Era già rotto la prima volta, l'avevo sistemato. Sembra lo stesso problema lì. Poi da poco, un paio di mesi fa lo stesso, lui non accende più. Ho detto, dammelo, lo controllo. E si è ribruciato di nuovo lo stesso componente. Allora, se c'è qualcosa che non va prima di quel componente. No, ora se l'ho messo, sta sempre andando, sta sempre funzionando. Mi è capitato un altro identico, spiaccicato, con lo stesso problema. E allora è un problema di quel televisore? No, è il diodo che è partito già. Il diodo, l'ho sostituito e apposta adesso. Caffè, ma si trovano facilmente qui? Sì, e a voglia. Ma poi già ne ho, io recupero la schede, mi guardo la sigla. Quello là era SN, mi pare, se non mi ricordo. SN, SN 340, Vabbè, ma ci viene pure la seconda mano nei passi di prima, così almeno la puoi di più. No, si faccia tranquillo. Fai tranquillo che anche se hanno lavorato non si rompono già. Io ho riparato televisori anche usando condensatori usati. No, stanno sempre andando. Vabbè. Una l'usura ce l'ha, andava avanti Rubroffè. È andato a ordinarsi la pizza. Andate a prendersi la pizza. Pensavo stesse il telefono. Appaga. Avanti allora, Claudio. Un attimino che vado a prendere un paio di mando, lui mi sono preso un occhio stamattina, ti ricordi la mal di testa, Claudio? Vabbè, è passato. Cavolo! Oh, ce l'ho ancora! E poi mi prendo l'altro occhio, capigli in culo. Vabbè, non approfittiamo. Sicuramente qualche colpo l'aria è preso. Ehi. No, io mi c'ho queste accese. Sto andando col baracchino, tutto il tempo è brutto già. Non sa mai. Vabbè, ha ragione che vuoi te. Claudio. Ti ho chiamato, non ha risposto. Perché era il telefono, qua. Mi veniva male a rispondere. Andà bene. E allora, ditemi cosa, quindi l'hai preso nuovo questo televisore? Allora, subito l'ho preso nuovo, non c'era mai questo televisore. Cazzo, poi ieri c'era la partita, mi stavo guardando la TV qua. Sì, l'ho preso nuovo, allora. Allora, thank you. Poi Luca, lo volevo buttare, ridotta, ne fuori scorta, invece si deve essere bruciato il trasformatore, veramente attorno il trasformatore, già ne gioco, non accende, e quindi domani mattina passo, lo prendo, intanto devo fare altre commissioni, lo portiamo all'autoparco, è andato, e poi devo scendere alle punti a ritirare un pacco, c'è una radio, e poi andiamo da Globo, il resto abbiamo qualcosa, qualcosa da vestire. Vabbè. Un bel giro, io me l'ho fatto oggi, un bel giro, sono andato anche dai cinesi, da quelli, come si chiama, Bricocina lì, e sono preso anche le cose, il mio adesivo e un po' di roba. No, io abbigliamento da cinese non compro, compro roba, le scarpe, né abbigliamento, niente, no. Io ho la Globo, la vestice, da, insomma, lì ho preso niente, no. No, le scarpe mi dà tennis, mi ha regalato le Star Smith, il mio genero, ieri, bianche, non ce le avevo quelle, ce l'avevo l'altro tipo, Puccio, le cose, gli altri. Mi ha regalato quelle, ho fatto che non le volevo perché costano un sacco di soldi, quindi di scarpe già ne ho, prendo vediamo, qualche giubbotto, qualcosa, un paio di jeans, Luca lo stesso si deve prendere altra roba, quindi ne approfitta e usciamo assieme domani mattina, dai. Io le canti, le Star Smith le mettevo da quando avevo 18 anni, poi sono accorto che esistono, sia le canti che le Star Smith. Ce le ho tutte e due, ce le ho tutte e due, poi ce le gabbie, no, un'altra marca, dai, un'altra marca, comunque bella lo stesso, sempre bianca, e poi, vabbè, no, ma scarpe già ne ho, e c'ho anche gli scarponcini, già ne ho scarpe, compro un giubbotto di diverso colore, perché ce le ho tutte e due uguali, però di diverso colore, ma ne prendo uno blu. No, ma io non ho preso roba a vestire, caro, ho preso roba per Natale, non per intendere, ho preso roba di Colucci, roba così, capito? Ho preso il camino finto che dà, è proprio bello, dà un bel effetto. Praticamente tu lo accendi e c'è la linea che sta andando dentro il camino, sembra un vero. Ok. Ehi, stanno abbassando il PMR che c'è gente. Chi è? Manca di devi più di sopra. Aspetta, c'è qualcuno che chiama lontano. Chi è avanti? Ciao Lima 1 Veltieri, buonasera, ben ascoltato, come stai? Sono voi. Voi sentite sempre solo a me, sempre solo a me. Che ci sia una volta che sentite qualche altro la Sassari, ci picchiano. Vabbè, sono col baracchino piccolo tra l'altro, però già si difende, dai, già si invade, già va bene. Vediamo un po' se senti a Gianni Doppio Roma. Già, l'hai sentito a Lima 1 Veltieri? No, c'è il volume basso basso, non lo so se lui mi sta ascoltando, comunque lo saluto cordialmente, anche se non mi ascolta, l'aspetto la rimano, va. Hai sentito Lima 1 a Gianni Doppio Rumo? Figurati, sarà fatto, grazie per essere entrato, grazie degli auguri. Spero riascoltarti, dai, non c'è problema. Segnale per te quasi 5-9, 6-8 abbondante, quindi quasi 9, radio super 5. Ciao Lima 1, un abbraccio. Gianni ti saluta Lima 1 da Altieri, non ti ascolta. Ti fa tanti auguri, eccetera, eccetera. Ah, ma dici cosa cambia se tutto al 100%, Cosa cambia Gianni Doppio Rum, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, figurati. Va bene, che va bene, no, mi sembrava Daniel, già mi sente lo stesso, anche col baracchino, se vate, non c'è problema, già arrivo lo stesso, va bene che va bene, tanto aveva un freddo vola già, minchia, sono uscito a 9:30 a portare il cane, così lo porto più tardi oggi, ma c'era da cagarsi sotto dal freddo, c'aveva il berrettino, mai c'è uscito così, i guanti, tutto incappucciato era. No, però l'ho portato anche io verso l'una meno un quarto, l'ho fatto così perché sono andato presto, cioè mi sono fatto tardi, verso le 9:30, dico la verità, poi tra una cosa e l'altra sono fatte le 10:15, ho chiamato a carica a vedere se è arrivato il gas, sapevo che toccava scendere di fatto, perché sono già sceso avanti ed era esaurito. Mi ha detto che l'avevo fatto, quindi ho preso il cane, l'ho portato 5 minuti giù e gli ho fatto fare le cose velocemente. Quando ha fatto tutto siamo preso il cane, me l'ho caricato in macchina, siamo andati a carica, ho messo il gas e poi quando sono ritornato ho parcheggiato la macchina e ho continuato a portare a lui. Quindi erano mezzogiorno e mezza, l'una meno un quarto, quell'ora lì, e me l'ho preso al vino. Tanto freddo c'è, molto molto freddo, sta bene dentro casa, veramente alla grande, ma fuori cazzo c'è un freddo allucinante. Poi c'è più in alto, c'è in montagna, lì. Già c'è l'aria di montagna quella zona. Arriva quest'aria da oggi, allucinante, poi stamattina ho trovato, c'è la guardia giurata qua delle Rospinche di Nulvi, ci conosciamo, e gli ho detto a vedere se c'era neve, stamattina ho detto guarda, quando sono uscito io più che neve era ghiaccio, proprio la strada era tutta ghiacciata, l'erba era completamente bianca dal ghiaccio, diceva invece che ieri notte c'era la temperatura sotto zero, però neve non ce n'era. Tutta la notte più o meno, tutta la notte, mi sono fatto due o tre volte per andare in bagno e niente, praticamente stava sempre più o meno, sino a stamattina presto, ho aspettato a portare il testo perché stava ancora più o meno quando mi sono alzato, e in effetti che aveva quasi smesso quando sono sceso giù. Poi ha smesso del tutto, quindi ne ha approfittato, gli ho fatto fare qualche bisognino, cose fuori. Sono sceso la carica perché poi a mezzogiorno chiude il rifornitore, quindi non potevo restare, capito? Oh, io va bene, dai. Problema, poverini, quando piove il cane è un casino, vabbè. Io appena rientro, lo metto lì all'ingresso della porta, prendo tutta l'attrezzatura, lo asciugo, lo pulisco, lo faccio e poi lo faccio entrare dentro. Sono sporca tutto, perché lui sta molto nell'erba, capito? Vabbè, e cosa vuoi fare? Idem, anch'io faccio così. Prendo lo straccio, lo asciugo prima, poi gli passo quello profumato, la salviettina, le zampette, gli organi sui, e poi diciamo che una volta che è asciugato così lui si mette in terra dove passa la tubazione del radiale radiatore e riscaldato. E a chi è indietro? E lì sotto la TV che c'è caldo, col suo materassino, c'è il lenzuolino lì sotto, la copertina, e sta sempre lì. Fino a quando non lo chiamo a portarlo, lui è sempre lì. E vabbè, comunque, cosa ci vuoi fare? E se avessi rientrato già nel buffet, attento, il buffet, non è rientrato ancora. Se la sta anche mangiando la pizza, se te lo... Cosa già? Magari la fatta subito se la sta mangiando. La pizzetta si difende. Ah boh, non lo so. Luce. No, io stanotte mi sto aspettando la mia figlia, che doveva venire a cena. Ho detto veniva a cena oggi. Preparato la salsa tonnata a pranzo, la portavo stanotte e facciamo il vitellone con la salsa tonnata. Che è buono, il vitellone. Io a proposito di tonni mi ha ricordato il tonno e ho visto poco fa dei filmati, dei video di pesca del tonno, che è allucinante, con la canna da pesca, ma poi come ti bilanciava, ma tonni che pesano, era lungo 2,10 metri questa che avevo pescato, quelli che pesano 110-120 kg. Ma quello a Di Max, quel programma che danno a Di Max è il pomeriggio. Eia. E lo guardo anch'io a volte mi attira molto quel programma dove ci sono quei trasporti eccezionali, quelle cose, me Lega Galattica, hai visto l'altra volta che stavano assemblando una nave, minchia. È anche una cazzo di quelle praticamente prefabbricate, la caricano su questo carro, poi ti puoi trasferire di casa, ti prendono la casa e te lo prendono la tua terreno, la stessa casa, e tu non devi spostare nulla, capito? Sì, vabbè, chi si lo zingali, vai. Che cosa fate di zingali già? No, no, questo è proprio un... c'era l'altro giorno, avanti ieri mi seguo. Questo programma dove stavano un cantiere navale, dove stavano assemblando proprio una nave, non l'avevo mai vista. Tutta proprio assemblata, a pezzi, a pezzi, capite? Una nave grandissima. Poi hanno iniziato a mettere il motore, tutte le stive, tutte le cose, minchia. E i canti da noi sono affascinanti come sono affascinanti quelli dell'aeroplano. Sono cose enormi, dove ci lavorano gli uomini che sono piccolissimi in confronto al mezzo che stanno costruendo. E ti danno, sono suggestiti, dai. Grande, alla grande, grande. Lì ci vogliono saldatori, di tutti di più, arredatori, di tutti di più ci lavora. Sì, c'è pochi ingegneri navali, un bel niente. Vabbè, quello è un lavoro molto particolare. Cantiere navale è bello, bellissimo, che aspetta. Io l'avevo visto a Cosio, a Genova, dove c'era l'ansaldo, ma certo mi ha cantiere navale. Forse per la navale c'è anche a produttore i cantieri navali. Ce ne sono diversi, ce n'è uno alla Marinella, che mi ricordo io, poi c'è quello di Ragno Squeo, e poi ce ne sono anche altri forse. Ce ne sono diversi. Già, cantiere navale, navale, qui ci sono cantieri di pescherecci, qui ci sono cucigattoli, cantieri navali dove c'è il bacino che entrano le navi, mettono a secco le navi, non le barche, no, le navi. Beh, viene chiamato cantiere navale per quello. Sì, vabbè, il nome è sempre quello, ma io intendo cantiere navale, navale. Dove c'è l'ansaldo costruiscono proprio le navi, capito? E dove hanno fatto a pezzi quella che si è arenata lì all'isola del Giglio, a Costa Crociere. Quello lì sono cantieri, poi a Genova fanno anche una bella fiera delle imbarcazioni grosse, di yacht, di quello e là. Gommoni enormi, gommoni, io ho visto dei gommoni che praticamente c'avevano i motori elettrici. No, fiera di imbarcazione non ne ho mai visto. Io a Genova sono andato 2-3 volte alla fiera dell'animatore, poi sono andato a Milano. Basta, poi mi sono ritirato. Perché ogni volta che vai devi avere il portafoglio pieno e poi torni che è vuoto. Sì, vabbè, ma almeno ti sei tutto in soddisfazione di aver visto cose nuove. Io sono stato all'acquario, sono stato diversi posti a Genova. È un po' grigia come città, non è che mi piace assai. È la parte del porto è grigia. Tutte le cose scure ci sono, i guardalini sono tutti caperugginosi, vabbè. Neanche a me. No, già ci sono dei posti belli, ma dei posti non mi piacciono. Ah, aspetta la sorella di mia madre a Genova. La conosco molto bene. Sono stato spesso. Spesso, quando ero più ragazzo, diciamo, capito? Qui sono stato 5-6 anni fa, quando è morto mio zio, il marito di mia zia. E lui a funerale siamo andati. Con mio fratello, mia sorella, mia madre non abbiamo portato. Capito? Troppo anziano, siamo andati tutti i nipoti praticamente. E ci abbiamo fatto un bel giro, siamo rimasti 3 giorni lì, 3 giorni siamo rimasti. Però la mitica via che mi piace è che devi stare attento, cazzo, non devi avere niente in tasca, è nuda, via preca, troppo toga, minchia cazzo. A me me l'hanno sconsigliata, non è che stare a parte che c'è un po' di delinquenza lì. La delinquenza, la Trevigioso, la delinquenza, boh. È come ti quando andi a Napoli, a notte si goccia, è una via troppo tovera, di tutto vendini già, di tutto, però devi stare attento. perché sennò ti ruggiamo e manco di una bizia. Ma cazzo, se devi comprare i soldi devi avere a prezzo, quindi qualcosa te devi portare. Ehi, guarda, a me mi aveva insegnato la figlia di mia zia praticamente. Mi ha detto, noi passiamo, tu guardi l'articolo senza niente, guardi quanto sono i prezzi e sforzi, guardi quanto costa, ti prepari già i soldi. Poi ripassiamo e dici, mi serve quello, ma veloce deve essere, mi serve quello lì, le dai i soldi subito e via. Senza aprire il portafoglio, senza togliere altre banconote, devi avere i soldi pronti, capito? Compri e tenandi, se no si vottito. Sono scippatori, ci sono politiche, c'è spaccio di droga, c'è prostituzione, c'è tutto, mi viene a prendere e poi farà via rovinato. Sì, vabbè. A Genova va via Pre, noi abbiamo via 25 aprile, via Levante. Che ci avevamo, ma non mi è rimasta gente. Noi, boh, a quando sono io, ho fatto le mie donne, no, non ne ho più visto bianche che questi si prostituiscono. Però vabbè, io non sto più andando di lotta in giro, però io mi ricordo che la maggior parte erano negre e cinesi, che si stavano prostituendo ultimamente. Sì, vabbè, quando eravamo ragazzi già c'erano, però erano bianche, adesso è tutto mondo di negre, per carità. E vabbè, i tempi cambiano, KK e KK. Questa è quella che stava facendo alternata, vedi? C'era il gavetto del PL che c'era andato a casino, adesso non lo fa più. Avanti, chi è? Ciao, chi sei? Ciao Lucky. Ma lo vedi, con il gas mi intende a Capovera, con l'altro, con quello Inter che non mi sento, te ne immagini? Esatto, sì, è vero, adesso ti sento però. Ma insomma ti sento. Ehi, ehi, come mi senti tu a me lì? Bene o basta? Cappagamba, avanti Claudio. Dove sei? Campomela, Campomela o Mela Campo? Ah, Mela Campo sì. Va bene, va bene. No, io ti ho sentito subito, eri già 5-9, adesso stai andando aumentando. Va bene, va bene. Ho avuto neve, fortuna. Nevi. E non ce n'è neve a Campomela. Ah, a Campera. Sì, allora. Allora ancora la temperatura è buona, vai. Non siamo sotto zero, vai già. Ehi, perché Campera è lo primo luogo che si vuole la neve, si gira tutti i cani, macchine, sono le volte a stare un casino lì, tu conosci. E vabbè. Ma poi fortunato adesso, poco ne manca, tra poco c'è la trasmissione e saluto a tutti. Come lo vende Ogamio, fortunato, tanto devi andare in pensione. Ma intanto è suo. Cioè vai via tu e non c'è nessuno da poter assumere, sai, a tagliare me che ha voglia di lavorare, cazzo, sempre la tessitoria, mi c'è la sciopero oggi, sciopero non so di enti pubblici eccetera, perché col sistema quota 100, con Covid, ma le varie sono andati via un bel di persone dagli uffici e stanno facendo degli orari massacranti per poter coprire. Cioè non ci sono concorsi, non ci sono assunzioni, non c'è niente. Ma assumi la gente, cazzo, c'è gente che voglia lavorare, c'è gente laureata, c'è gente che può lavorare e tu non assumi. Ma vai a fanculo. Entrate in galleria, Fortunato, riprendi già. Fortunato, dove sei arrivato? No, non ti sente che in galleria. Sta pagando. E io mi devo comprare un amplificatore d'antenna. Nel senso che come ricezione, così almeno sento quelli di fuori. Per avere l'antenna ti perdi un bel di segnale, ti perdi un bel di espressione. Guarda, se tu ti trovi un B300, bello, nuovo, buono, io c'era un periodo che lo attaccavo col baracchino solo esclusivamente per il preamplificatore d'antenna. C'è un preamplificatore d'antenna a 20 dB e una cannonata. Lo tenevo inserito quando sentivo gente bassa, che è difficile che io senta gente bassa, ma può capitare, lo attaccavo e portavo il segnale a più 20 dB. Lo so, l'amplificatore, ma c'era, ma non ha capato l'amplificatore. sono buoni, e poi i viaggi, perché quello lì è buono lo stesso. Ma poi quelli della ZG mi hanno fatto sempre distorcere la radio, quando aumenti, che vedi in terza, quarta marcia, comincia a distorcere. Ma perché io distorcendo sto adesso? Sono distorto secondo te? No, adesso... Adesso no, prima ero distorto. Cioè, io, tu sì, con la mia voce come la senti? Distorta? No, non è chiara. Chiara è bella, ecco. Io adesso sono agganciato. E questo è un B300B, un B300B, con preapplicatore d'antenna, tutto. Già, non sono i lineari che vanno in saturazione, se li hanno fatti, sono fatti per funzionare. E il problema del pilotaggio è che noi le diamo. È inutile che tu le dai 10 watt d'ingresso ad un lineare per dartene 150. Gliene dai 5 d'ingresso e te ne da 100. È la stessa cosa, non cambia niente. Però automaticamente esci bene, tutto qua. No, aspetta, io ce l'avevo, 5 marce. Mettimi la prima, la seconda. La terza cominciava a essere un po' compressa, cioè la prima e la seconda andavano bene, la terza cominciava a comprimere, poi la quarta e la quinta distorceva più. Allora io sono in quarta marcia adesso, guarda, questa è la quarta marcia, ok, non so quanti watt sta dando, non me ne frega perché sto andando con 5 watt di pilotaggio con il 294 della Inuit, questa è la quarta marcia, aspetta perché è sotto, allora, questa è la quinta marcia e questa è la sesta marcia, no? Allora, sesta marcia, com'è? Sta distorcendo? Non è così già, non è così, si tratta sempre del pilotaggio d'ingresso lineare, a prescindere che il lineare deve essere buono, non deve essere toccato, non deve essere sporcato, capito? No, io sono in sesta marcia adesso, non so quanti watt sta dando perché non c'ho wattimetro, non c'ho niente, ce l'ho sempre attaccato proprio per il preamplificatore d'antenna quando non sento, capito? Su 260 me la così. Cosa? Penso che ne dia 260 così qui. No, mi dà 260, ui. Allora B300, si chiama B300 perché 300 watt in SSB, capito? Non li dà, a me guarda con la T230, misurato con la T230, in quinta marcia dava intorno ai 190-200 watt, non di più. E già arrivato, tanto di più, fai solo casino, disturbi, fai, ma non è truppi, non va bene. Ecco qua, adesso l'abbiamo attaccato. Perciò già, è per farti capire, no? Che se tu hai una radio tarata bene a 5 watt, 4 watt e gli dirai d'ingresso anche a un lineare ZG, qualsiasi tipo di lineare ZG, va bene, va bene. Se poi gli dai 8 watt, 10 watt non va più bene, perché chiaramente non ha il finale a MOSFET. Però io quando lo uso quello lì, lo uso sempre con potenze minime. E invece di darne 200 te ne dà 150, ma cosa agiamo? Facciamo a ruta. Vediamo se è uscito fortunato dal tunnel. Si è uscito dal tunnel nel... Sì, confermo. Gianni, meglio quella radio che hai adesso. Ti sentivo benissimo, forte, chiaro, pulito. E questo è il gas. Fortuna, mi auguro che anche tu te la faccia la tanto in casa, quando va in pensione. Ma guarda, io forse Claudio se lo ricordo, io c'ho un antennino perché il poggiolo mio dà proprio sulla parte vostra, cioè proprio sulla città di Sassari. Io vado in copertura con Porto Torres, cioè con il nord, però non vorrei creare problemi lì in condominio, mettere un antennino. Ristorto. Vi posso dare le mie coordinate? Tu dove sei? Per me sì, io... Oh, mi lascia, sono impiatto, sono fortunato, che sì. Ci sta mercato, dai, 131 qua. Sento Gianni, però c'è il fischio. Sto dicendo 9 Santiago qua, uscita a Viale Portotorre. C'è, portate già. Qui non la passiamo adesso, ma porca miseria che... Chi è? Qua con la scimmia. Claudio, la crepo? No, ma sento... ti sento sotto, chi è? No, voi non la passate, la partita. Quanto ti arriva già te? Sono scala, 9.30. 9.30 allora è sempre la direzione che ho detto io, no? Dalle parti di Gianni, Claudio. Dalle parti di Gianni? In alto però. Vabbè, Gianni mi sentivi? Ristorno. Solita storia? Marcolino, buonasera a tutti comunque. Ma chi sei? Ho acceso adesso per vedere se l'antenna era ancora sul tetto e ho sentito portante voi eccetera, non accendevo da qualche giorno e non cambia niente, dai, sempre alle solite, e come ho acceso spengo. Buona serata a tutti, buon divertimento per modo di dire, vado a mangiare, ciao. A te già ti ho riconosciuto, tanto saluto Fortunato che sicuramente sarà già arrivato in deposito. E l'altro che non ho riconosciuto chi è? Quello di scimmia. Martino, tu sei? Io, ma quando vai? Senti, ho detto Marachino, minchia, ti cambia totalmente la voce, che ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Tino. Tu l'ho passato, ma sentivo distorto, capito? Sì, vabbè, però l'ho passato, quindi... Sì, l'ho passato. Guarda che bastardo. A me mi senti, Marco? Ma sono solo io da te, no? Solito discorso, eh. Complimenti, continua. Riesci a vedere adesso se ti sorgo, vedi un pochino. Claudio, ha migliorato com'è? Sempre la solita? Oh, va bene. Anche tu stai facendo il baracco? Sì, un baracchinetto, dai, 5 watt. Sì, anch'io, un baracchinetto, 5 watt. Già ci sentiamo lo stesso, non c'è problema. Sono crepo come lì, figurati. Vi voglio un gretto a rompere le palle. Rimani Marco, che lo annulli completamente. Ma mi senti solo tu, Tino sicuramente non mi sente. Se la portante è lì, diciamo zona barca, puntini puntini. Sì, sempre da lì è la portante. Quando arriva 9.30 Gianni, non è dal latte dolce, perché dal latte dolce sono persone serie, capito? Persone serie e padroni della radio. Sono persone che non hanno nessun problema con noi, mentre invece questo deficiente, ripeto, ribadisco, da quando l'hanno eliminato tutti, allora ogni tanto le viene il BDB di mettere la portante. Ma sta attento, non te la pongo in luce la portante. Secondo me, io stento a credere che sia lui comunque, stento a crederci, perché sembrava un giovane assennato comunque, non... vabbè, riprendi Tino. Dai, datemi nome e cognome che lo faccio in diretta. Sì, io già vogliamo il cognome, ma non lo dico io Marco, attenzione, non lo dico io, l'hanno provato, capito? L'hanno provato e tu sai chi, quindi se la direzione è quella c'è poco da discutere, non è che non ci sono alternative da poter dire Claudio, Marco, Giovanni e Peppino. Se la direzione dello strumento è quella, lì uno solo ce n'è, capito? Uno solo ce n'è col baracchino, lascia perdere l'altro che non si tocca, capito? Quindi di cosa stiamo parlando? Poi lo dico io, lo dice lo strumento, che sai chi è che l'ha fatto, ed è molto attendibile, quindi... Vabbè, la direzione è una cosa, Claudio, però per fare una triangolazione ci vogliono due postazioni con direttive messe in due punti diversi e poi fatto l'incrocio del segnale massimo, capito? La direzione, bisogna vedere chi c'è in mezzo, da dov'è quella persona molto preparata fin lassù, potrebbe essere un segnale a distanza intermedia. Gianni già lo sa come la penso io, no? Non cambio la mia idea, comunque, no, non cambia nulla, spegni una settimana e riaccendi e c'è portante, molto bello, ecco perché mi sto dedicando ad altro. Poi adesso mi sta arrivando un ricevitorino HF, mi darà un po' all'ascolto delle bande amatoriali. Dai, riprendi Gianni. Un attimino che mi sto ordinando le pizze per stare. Eia, l'abbiamo già fatto Marco, quel lavoro lì l'abbiamo già fatto con quella persona, già fatto, incrocio, non ce n'è ostacoli, non c'è nessun ostacolo in mezzo, è dritto, capito? Perché la linea dello strumento è dritta, proprio puntata verso lì, tu non hai neanche idea di che strumento sia, guarda. Non è che quella persona lì non lavora su WhatsApp, se no ti avrei fatto mandare la foto, una cosa allucinante, ma sensibilissima, ti trova il pelo, quindi lascia aperto, che come ti dico io, ma comunque a me non mi disturba, non me la fottinuta, già va bene lo stesso. Avanti muscolo, mi ascolti bene, sì? Sì, sì, fai, rispondi al telefono. Mi è sembrato che era il telefono tuo, o sbaglio? Aspetti, siamo con Ilaria. Saluta! E quindi Tino, in questi giorni cosa sta succedendo? State modulando che adesso di sera è un po' più tardi? Io proprio tra ieri, forse l'altro ieri, proprio non ho nemmeno acceso, anche perché io come vedo piogge, fulmini anche lontani, stacco tutto, spina, antenna, tutto. Non che serva, perché se scende un fulmine diretto si porta via tutto, è tutto, anche quello che non è collegato. Ma Marco, ti dirò che anche io ero un po' in stand-by, che per via del lavoro rientravo tardi, quindi doccia, vai a mangiare, non hai voglia di stare alla radio, eh? Ma è amplificata questa radio, perché vedo lo smitter del microfono che non sta spingendo, eh? Rientrato dopo la pista, buonasera a tutti. Buonasera. Marco. E ciao Gianni, ben entrato. Dimmi Tino. Ciao Gianni, lo bocca. No, mi chiedevo se era amplificata questa radio, perché lo smitter del più 5 non sta segnando, forse c'è la batteria scarica. Ma è nuovo? Sai perché? Io l'MB più 5 l'ho comprato che era vergine, proprio verginissimo dalla fabbrica. E a me anche con batteria carica segna poco e niente, a meno che non ti attacchi al mic. La radio è ottima, la modulazione tua è più che ottima. Vai Gianni. Noi vabbè stiamo ordinando le pizzette, perché io sono più goloso di pizze cantate che di quelle grandi. Mi piacciono molto di più quelle al taglio, le prendo da Oggiano e se fa per buono. Ma non già il fratello di quello che le prendo io qua a Termanzi. Ehi, accorti che grazie alla vendita. Ma fa bene anche i punti, Però non due punti invece fanno una è morbida e l'altra è più croccante. Ma a me mi piacciono tutti e due. Ho già non le porto a casa, quindi le prendo da lui perché il punti che non le porta. Se no anche il punti che le fa buono. E già lo so. Anch'io quando non vi a Pascoli le prendevo lì. Gappa, sì, ti stai andando benissimo, amplificata, va bene, dai, io sto andando con l'MB più 5, ma no, non ti creare problemi perché anche il mio è così, anche questo la lancetta si muove pochissimo, pure vedi la preamplificazione c'è, la batteria è carica, non lo so perché, qualcuno si muove molto, qualcuno si muove poco. No, vabbè, perché io ne ho due in trazione, no? E l'altro invece supera la soglia in qualche